Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami, I love Italy, yeah, yeah, yeah. E questo è I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti in onda su Radio Miami International. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da un po' tutto il mondo e vi ricordiamo i nostri riferimenti, i nostri contatti. I Love Italy è una trasmissione che va in onda per l'appunto sulla WRMI Radio Miami International a cadenza settimanale. Il programma dura 15 minuti ed è redatto da Andy Mangiarotti e la lingua è la lingua italiana. In apertura i riferimenti per interagire con I Love Italy: abbiamo il nostro sito voiceofitaly.it oppure la mail per scriverci i vostri rapporti di ricezione a andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo anche il numero di cellulare per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram, 377-45-630-33, e poi vi ricordiamo il sito di Radio Miami che ci ospita, wrmi.net, wrmi.net. Potete anche scrivere direttamente a Radio Miami in formato cartaceo all'indirizzo WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. In apertura di I Love Italy, doveroso salutare e ringraziare due amici che ci hanno scritto al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org. Il primo è Giuliano, che ci scrive dal Canton Ticino. Buonasera Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su Radio Miami e ci allega un file MP3 con la registrazione appunto di I Love Italy, nonché un PDF dove ci fa un po' il sunto di ciò che ha ascoltato. Lugano, Svizzera. Ricezione: gentile Andrea, con piacere che ti vio il rapporto di ricezione del 21 gennaio 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Dettagli del programma ascoltato, identificazione in inglese e in italiano, poi mi dice ciò che ha ascoltato e vediamo il rapporto di ricezione, un simpo 45444. Quindi segnale molto forte, nessuna interferenza, debole rumore di sottofondo, propagazione leggera e valutazione complessiva buona. Per favore, se le informazioni di questo rapporto di ricezione coincidono con il logo della stazione, mi farebbe piacere ricevere una conferma dell'ascolto con una QSL. Sarà fatto appena possibile. Invieremo all'amico svizzero, il nostro amico Giuliano, una cartolina QSL di I Love Italy. Poi ci scrive dalla Cina un amico. Sono un ascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma alle ore 21, sino alle ore 21.15 UTC, la frequenza è 15.770 kHz, segnale molto forte, vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, sarà fatto. L'amico dalla Cina si chiama Ding Lu, appunto dalla Repubblica Cinese, e ci segnala un simpo 44343. auguro a tutto lo staff di WRMI e Lovit buona salute e tutto il meglio, auguri appunto per essere sempre più migliori. Questo era l'amico Ding Lu dalla Cina, grazie anche a lui. Continuate a scriverci, se vi va andate su voiceofitaly.it per avere tutte le informazioni, per conoscere il programma un po' più da vicino. Benissimo, cambiamo argomento e parliamo di religione. Tra i tanti capitoli del Vangelo ce n'è uno direi molto significativo che vi vado a leggere. Sto parlando della tentazione nel deserto di Gesù Cristo ad opera di Satana. Dal Vangelo di Matteo, andiamo a leggere questa. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei il figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine e a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E Gesù rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò e anche gli angeli gli si accostarono e lo servirono. Cosa ci dice di importante questo capitolo che abbiamo letto quest'oggi qua a I Love Italy, in questo periodo italiano di Quaresima che arriverà fino alla Santa Pasqua? Quindi che cosa ci dice questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, la tentazione di Gesù Cristo nel deserto? Ci fa capire in parole povere che anche noi nel nostro piccolo in questo periodo possiamo e dovremmo farlo anche tutto l'anno, perché le tentazioni che Satana ci dà anche a noi comuni mortali sono tante, però possiamo cercare di resistere. Certo, non è difficile resistere, capita di cadere, ma ci possiamo anche rialzare. Molto importante ogni tanto magari fare dei sacrifici in onore di nostro Signore Gesù Cristo e del nostro Dio. Se come Andy siete cattolici o cristiani e così via. Ci insegna appunto Gesù Cristo a resistere alle tentazioni, che non è facile, però ci possiamo provare, cosa dite? Magari resistiamo a c'è che beve a non bere, a non fumare, a non sperperare denaro inutilmente. Magari trasformiamo queste cose, magari non sperperiamo denaro, ma facciamo opere pie. Contattiamo un sacerdote. Spesso molti si affidano quando sono in disgrazia, quando sono caduti nelle tentazioni. Magari si affidano a un cartomante, a un mago, a un astrologo, invece di affidarsi a queste figure losche, affidiamoci tutti insieme ad un sacerdote e vedrete che troverete il giusto conforto per vivere al meglio la vostra vita. Questa è I Love Italy con Andy Mangiarotti alla conduzione qua su Radio Miami International, lo studio dell'Otrepò Pavese di Radio Miami, sono 15 minuti in lingua italiana dove parliamo un po' di tutto. Quest'oggi abbiamo salutato questi amici, abbiamo ricordato anche questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, delle tentazioni del diavolo che fa a Gesù Cristo. Magari prossimamente vedremo altri passaggi dal Vangelo, dalla Bibbia, lo commenteremo assieme. E se anche voi come Andrea volete tenere vivo la lingua italiana, anzitutto una cosa molto importante: ricordate che Radio Miami che ci ospita ha avuto problemi con l'uragano un po' di tempo fa, e quindi potete immaginare le spese ingenti che sta appunto sta coprendo il nostro caro Jet Flight, che sono infinite perché costano cari, trasmettitori, riparare le antenne. Andate sul sito wrmi.net, lì potete anche donare per cercare di ripristinare un po' tutte i trasmettitori, le antenne delle onde corte. Ricordiamo che Radio Miami è una delle poche radio rimaste sulle onde corte, purtroppo giorno dopo giorno scompaiono un po' molte radio. Certe volte si guarda alla tecnologia, a internet come il futuro, senza renderci conto che se dimentichiamo il nostro passato non potremo neanche vivere un futuro migliore, perché se dimentichiamo il passato, dimentichiamo la storia meravigliosa appunto di Radio Miami, che potete leggere sul sito. Io l'ho letta e mi sono innamorato di questa radio, di questa storia gloriosa che parte già negli anni del 1930-40. Quindi è importante donare anche quello che riuscite per permettere appunto a Jeff White di sistemare i ripetitori, le antenne e tutto il resto. Io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltato, a Dio piacendo ci sentiremo prossimamente. Ringrazio come sempre Jeff White per lo spazio, per avermi permesso di essere in onda su Radio Miami anche questa volta. Grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto, ringraziamo appunto i due amici che ci hanno scritto, Giuliano dal Canton Ticino e l'amico dalla Cina, vediamo che recupero il nome prima di salutarvi, Ding Lun dalla Cina. Grazie a tutti, sia lodato Gesù Cristo, e un abbraccio grande a tutti voi, e rimanete su Radio Miami International perché le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andrea, un abbraccio, buon proseguimento d'ascolto su Radio Miami. Ciao. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami, I love Italy, yeah.